Cose che succedono in Lombardia. Chi è stato? Se lo chiedono i ragazzi di Lapsus, che è il laboratorio progettuale degli studenti di storia dell'Università di Milano. Chi è stato a pianificare la strategia della tensione? Chi è stato a realizzare da volere e poi a realizzare le stragi impunite che hanno scosso l'Italia tra il 1969 e il 1984? Chi è stato e chi no? Stato con la S maiuscola. E alle 11 in via Festa del Perdono, proprio tra poco, verrà inaugurata una mostra che ha proprio questo titolo, Chi è stato, con la S maiuscola, una mostra che si potrà visitare all'università fino al 25 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Sono testi, foto, audio e video fatti per raccontare quegli anni così importanti per la nostra storia repubblicana. Dario Falcini ha intervistato proprio poco fa Martino Iniziato, uno degli studenti di Lapsus, che ci ha presentato così la mostra. Fra un'ora circa inaugureremo la mostra Chi è stato all'Università Statale di Milano, nel cortile del Settecento, proprio di fronte all'Aula Magna. Questo progetto è nato sull'onda della nostra forte indignazione per l'ennesima sentenza di assoluzione nei confronti degli autori della strage di Piazza del Volga a Brescia, che è stata emessa nel novembre scorso. Abbiamo però pensato che non ci potevamo più aspettare giustizia da parte di uno Stato che per tanti anni ha appunto assolto in serie tutti gli imputati, e allora abbiamo pensato che la cosa migliore fosse contribuire alla cementificazione della memoria collettiva di quella che è la verità storica che è emersa negli anni rispetto ai processi legati alla strage della tensione in Italia. E quindi è nata un po' questa mostra, appunto chiamata Chi è stato, che in 27 pannelli ricostruisce un po' tutta la storia della strategia della tensione e anche le stragi impunite successive al 74. Si passa ad esempio per Piazza Fontana, ovviamente, per la strage di Brescia, per l'Italicus e così via. Sarà una mostra abbastanza interattiva con degli schermi di computer dove si potranno vedere dei video delle stragi, vedere delle fotografie, ascoltare. La cosa più interessante forse, ascoltare le registrazioni degli interventi che furono fatti al convegno dell'Istituto Polio, dove venne praticamente teorizzata quella che fu la strategia della tensione, dove si possono ascoltare personaggi come Rauti, Giannettini, direttamente coinvolti nei processi di cui ho parlato prima. La mostra resterà esposta nel cortile del Settecento fino al 26 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 18, e sarà possibile anche prenotare visite guidate. Magari alcuni docenti in ascolto vorranno collegarsi sul nostro sito www.laboratoriolapsus.it e prendere contatto con noi per portare le loro classi. Come si fa storia di un periodo di cui non si vuole dare una verità? Si può fare, prima di tutto, questo va detto. Si può fare e bisogna inventarsi, bisogna studiare forme nuove, perché i documenti legati a quegli anni sono diversi da quelli tradizionalmente intesi. Non ci sono solamente i libri, ci sono ad esempio le sentenze dei processi, che per quanto assolutorie contengono una quantità infinita di materiali. Ci sono i materiali delle commissioni parlamentari d'inchiesta che negli anni hanno approfondito veramente in maniera incredibile la verità di quegli anni, e allora si può attingere pubblicamente. Ci sono i video, le fotografie, fonti diverse rispetto, come dire, alla storia come è stata sempre tradizionalmente studiata. La sfida sta nell'applicare questi nuovi documenti. Bisogna capirli, bisogna saperli maneggiare, bisogna saperli studiare, ma noi che siamo studenti di storia pensiamo che, come dire, il futuro dello studio della storia contemporanea, della comunicazione storica, stia proprio lì. Cioè nel capire che non si può più semplicemente fare una storia da eruditi sui libri, ma che bisogna sporcarsi le mani con forme nuove, con documenti nuovi, documenti diversi. Quando, voglio dire, si parla dei misteri d'Italia, non ci sono le verità, è tutto ancora molto fumoso. Ecco, noi combattiamo fortissimamente questa affermazione. Non è vero che in Italia ci sono misteri d'Italia. In Italia ci sono un sacco di avvenimenti, voglio dire, che ormai sono comprensibili, sono studiabili, su cui si può ricostruire la verità. Fontana, Brescia e così via sono esempi di tutto questo. Si tratta di avere il coraggio anche da parte dei docenti universitari, che, come dire, si spaventano quando mettono le mani in questo tipo di argomenti, di avere il coraggio di studiarli, di comunicarli e di affrontarli. per quanto vuol dire siano scomodi ovviamente. In definitiva, chi è stato Martino? Chi è stato? Sono stati diversi esponenti dei gruppi neofascisti dell'epoca. Su questo ormai ci sono nomi e cognomi che si possono leggere, che si possono trovare nella mostra e che voglio dire, indiscutibilmente affidano la responsabilità storica di quegli atti a quei movimenti, Ordine Nuovo e così via. Senza dimenticare che quelli, come dire, sono stati gli esecutori materiali, ma che chi è stato anche, come dire, sono stati anche componenti di quei pezzi di apparati dello Stato, quali appunto pezzi di servizi segreti, componenti dei partiti e così via, che hanno, si sono uniti, diciamo, si sono coordinati in quella reazione, reazione appunto conservatrice, reazionaria, che voleva bloccare quelle istanze di progresso e di democrazia e di libertà che in quegli anni erano molto forti. Sono le 10 in punto, cose che succedono in Lombardia termina qui, dopo la pubblicità si apre la finestra di fronte, una buona giornata da Alessandro Braga.